Sì. Per quanto riguarda l'antenna, non l'hai sistemata ancora? Tutto a posto, ce l'ho pronta sopra il muro, devo scendere in campagna e con la guarda, quell'antenna lì. Comunque qua siamo in famiglia, siamo quattro uomini e una gamba. Quindi me lo fa bene. No, lui la gamba c'ha nel culo, cazzo. Perché io sono da solo, un uomo e tre gambe. Ascolta tu, io tutto a posto, ho bevuto di sì. Non ho bevuto più di tanto, arrivavo a fare un karaoke, no? Oggi si può far scaldare, non sembra che mi si brucia il transistor del cervello. Per scaldare un po', dai. Poi adesso vediamo di aggiornarci, di migliorare. Comunque chi c'è in ruota? Chi è? Avanti. Ci sono io, Fabrizio e tu. Luca, dai. Andare ragazzi, di nuovo auguri, buon Natale a tutti, e ci sentiamo alle prossime, speriamo un po' più sano, perché io ci già ci vuole già. Ma tu non travagli, Salvi? Ehi, pur che non ci travagli, non è Porto Torres. Moto prendi. Ohia, te gratis, frate, gratis. A parte pure già la ganna. È vero. H.I. E ne muove. Che Fabrizio c'è? No? Fabrizio Ghirigazzo. No, mascherato. Fabrizio mascherato, ti sei mascherato bene però. E ti ho riconosciuto. Buongiorno, buonasera, me l'hai ascoltato. Ascolto due, ascolto basso. Comunque salutone se mi sei ascoltato. Ciao Luca, me l'ha ascoltato anche a te. Riprendita. Ma che a Carasciari semmo? Allora, Natale. Qua c'è in famiglia, siamo una quindicina di persone, capito? Adesso ho fatto la stazione per far caricare i condensatori. Ciao Fabrizio, mi hai ascoltato, dai, io in condizioni precarie qua, ho un attimino. Non mi vuole riaccendere il 131, se no qualche cosa in più già ti arrivo. Salve, poi devi abbassare, sei un po' amplificato, abbassa un po'. Ehi, amplificato, adesso va meglio, o sono troppo vicino? Prova, fa passaggio. Guarda un po', 1-3-0, 1-3-0, cambio passo. Ehi, è mai alta, Salvi, per me è alta, buono, non so, anche tu. Ma sei a casa Tovaglia? No, è un bel forte. Ma dove sei, giù la Marina o a casa Tovaglia? A Lima Delta, però, c'è la Marina. Positivo, va, e siamo un tiro di schiocco, siamo vicini. E anche tu qua sei forte e chiasso, arrivi forte. Anche Antonio, mi siete sempre accavallati ora. Fabrizio arriva a 9 invece, non so dove stiamo durando, Fabrizio. Fabrizio, che cosa ti trovi tu? Caffè, io sono zona latte veloce, dai. Però sto utilizzando un dipolo puntato verso il mare, quindi sicuramente ti prendo di spalle. Comunque ti arrivi 2-3. La modulazione per me è molto buona, va benissimo per me. Ok, dai. Il segnale per me invece è ultimo, adesso l'ho guardato bene. Portante bianca Santiago 9, modulato arrivi a 9+10. Hai picchi positivi, arrivi discretamente, bene, non c'è problemi. Scontiamo a tutti. Qua invece io sono in condizioni precarie, sto utilizzando un antennino di macchina e quindi più di tanto non posso fare. Ho pochi watt d'antenna, sto utilizzando 5 watt in questo momento, ok? Dai, riprendi. Tu lavori bene, cioè 2-3, ma ti ascolto benissimo, la modulazione va benissimo, è forte. Ok, benissimo, adesso rilanciamo a Luca, avanti Luca. Io sono piccolo e nero, come Calimero. Antonio è più forte di tutti adesso, vai tu. No, non è che sto spingendo molto, cioè ho poca potenza, capito? Non so, ma Fabrizio sicuramente ti arriva bene, è lì, È a fondo scala qua. Ci mancherebbe altro che non sia a fondo scala. Sicuramente gli arrivo anche io a fondo scala, 9.40, sicuramente il muro gli arrivo. Ehi, è una cosa del genere, dai, 9.40, 9.30, 9.40 modulati, dai, arrivi bene. Adesso siamo i 9, è normale. Anche Antonio arriva bene, Antonio arriva a 9.10 modulati, va benissimo. Per quella zona di Antonio, per questa zona è di lusso, non ci sono sacchi, capito? Poi c'è una buona antenna. In Corsica mi ha sentito lui. Sì. Fabrizio. Arturio, Arturio, passano più, ma non mi sono compagni più privata, ma mica ti chiamo la scorradio. Io, se sono basso, sono troppo capotenza, ciò. Sto scherzando, io sono basso perché se sono lì, io sono molto, sono più alto. Io sono solo un 5 watt, mi non mi fate scaldare il bivuccio del 21, se sennò vi do due fucilate, Allora, salve, bruci di giammi, la scorradio, ma cuba che ne li vengono, sì. E io diciamo la di andare di Lenini, ma rica lì, lo spurato lo fa il torto. Siamo una di. Beh, avevamo vedere un pito di cazzo. Avevamo troppo che cacende. Lo so. Mio cognato ha preso il microfono e l'ho spiegato, se parli sopra non ti sente nessuno. Bisogna aspettare che finisca uno, ma non è proprio parlare tu. Dai, a tu, a io passa di te andare per spurato. Avanzo qui in casa, sopra. Aspetta un attimo, due minuti che facciamo la prova. Aspetta, vengo io, sapevo, poco ubrizzoma, ma si consenti. Io tu mi turbi, mi lavoro io. Ma è tu che gioca a girarmi, e girarmi un bene, no, sapevo. Che reghe, prete. Fatta, è stato un po' strano. Un po' strano, no. Non c'è... come si dice? Non c'è allegria, zero. Ma tu, stai scordando le candelette? E la devo scendere. Dove ci sono stazionario, non ne ho. Una e uno, una e due. Ma perché siete su 14, casa dei cosi, di... come cazzo si chiama, Lucky Tucci? No, sapete, stiamo facendo le prove con Antonio e ci siamo spostati, abbiamo comprato un apparecchio e solo per quello. Prova a vedere adesso Fabri come ti arrivo lì. Voglio fare la prova, vedere se ti arrivo un po' più forte, faccio scaldare a Gigetto. Antu, sì, dimmi tutto. Ah, cambiato. Ehi, ho cambiato. Volevo capire, Fabrizio, che c'è il dipolo. Come ti arrivo adesso? No, arrivi bene, adesso arrivi 9.10 pieno di lusso. E pure di più di 9.10. Vabbè, ma mi cazzo già un baracchino, e quindi lo smitter è più selettivo. Arrivi bene pieno, capito? Anche 9.15, dipende dalla modulazione che fa, però arrivi benissimo, arrivi almeno 5 più di prima. 5 punti in più. Prima eri 9 fisso, adesso sei quasi 9.10. Già va bene, dai, a voglia, forse ti arrivo, sape. Tu c'è per forte piace arrivi, non c'ho problemi. Fabrizio! Cazzo, ero arrivato tu, la testa arrivi Sant'Agostini, ero già accesa, la stufa. Aspettala ancora un po', Fabrizio, almeno 7 ti devo arrivare, là ci accontentiamo, siamo tutti di noi. Ah, ok. Ma è una cosa, ma tu sei il Salveglio, quello vecchio CB, oppure sei un Salveglio di chi si accuditi da poco? No, tranquillo, ce l'ho. Anche croce ci sono in frequenza dal 97. 96. Vada se tu, là. Vai. Ascolta, non ascolti ora, migliorato un po', dai. Un po' un bel migliorato. Adesso ti ho detto, sei Santiago, sei modulati a 7 arrivi. La radio è buona. Ma quanti vatti hai messo? Ma va bene, va. Allora vuol dire che già funziona, Gigetto. Già funziona. No, di lusso. Tutta un'altra guba. Avanti. Luca, avanti. Cazzo ti buon prendi, Zeti, boh. Io l'unica cosa che posso fare è che la due finita, ma prova, Zeta. Prova a attaccare il baracchino a 220, ma magari arrivi più forte. Aspetta, datemi 5 minuti di tempo, là, devo fare una prolunga. Così. Uniavumu, gas. Capare che stai già, non tu. L'Intec. Ah, di lusso, va bene. Va benissimo, ok, avanti salve. Io ho un vecchio Typhoon, quello che ha 200 più canali. Cioè va bene, dai, va bene, tu usi un microfono normale, non è amplificato questo. Ma non è amplificato, la modulazione è molto buona. Sì, gliel'ho adattato io, dai, la capsula si è rotta, gliel'ho messo un'altra, gli ho fatto una specie di modifica. Perché se metto un MP4 esce veramente bene questo apparecchio, del 3009. questa mamma c'ho il 3009. No, ma qua la modulazione è buona, la capsula di lusso, è proprio una modulazione bella di lusso, proprio ascoltabile alla grande. Avanti, Antù. Pure qua va bene, forte. Andiamo bene, andiamo. Andiamo, cazzo, ha pagato, boh, l'ultimo passaggio ritorno all'altra radio, di noi, no, io, Iuia. Non sapete per essere qua vicino a me, che stai facendo lo Smithers? È lì, a due passi. Va a smattere lo Smithers, allucinante. C'è lì, a due passi. Se attimo poi lo sento gli altri. Infatti, già lo si preoccupa. Vabbè, come avete passato voi Natale o Luca? Ti sembri aggato? No, negativo, niente. No, io ultimamente sto soffrendo molto di mal di testa, perciò assolutamente no. Non mi sono proprio ubriacato niente, zero. Come mai mal di testa? Cosa adesso? C'è il cervicale di merda, poi quando cambia il tempo, magari è più freddo. Non lo so. No, lo so, a nuovo anno faccio visite di nuovo. Ah no, se c'è il cervicale, come cambiano gli sbatti di temperatura è così. È brutto così, eh. Io c'ho un mio amico e lo fesso. Ogni cosa che ha un cambio di temperatura si chiama di gabbo. Non è possibile. Pure succede ultimamente che bevo due bicchieri di birra e mi fanno chiamare di gabbo. Rosso. Vabbè. Allora tu, quindi Babbo Natale non ti ha portato niente? Ci abbasso un po'. Sì, te l'ho detto cosa mi ha portato. Il mixer mi sono comprato. Ah, ho capito, sì, il mixer. E vabbè, me l'ha regalato Sara, la mia compagna. Ha fatto bene, non è che... quello se poi ti piace la musica è comodo, ci vuole quello lì, se poi fai canti, fai qualche serata, non so cosa fai, ci vuole attrezzato neve con radiolo. Beh, certamente che sì. Adesso ho abbassato un po' di potenza, va bene, sì. E infatti se scende a Santiago 7. Già abbassano. E allora quando sei qua in zona fate sentirsi, che cazzo, cioè a meno che devi fare con furia, allora spingi. Se no spingere in città sotto i macchini. Avanti Luca. Infatti, lontananza. Vabbè, ma io mica posso pretendere. Io se siamo qua, ci sta, fare due chiacchiere. Furi, quando c'è propagazione che è buona, già mi sentono, però tipo a lunghe distanze, da qua ad Alghero, manco molto ci arrivo. Portatore si basso. E vabbè, l'antenna purtroppo è lì nel terrazzo e non posso pretendere. Poi un quattro d'onda anzi. Non me lo ricordo, se la metti sul tetto già ti intendere. Non ti preoccupare. Eppure con quell'antenna ci hai fatto anche qualche DX. Sì, qualche DX l'ho fatto, ma c'è una mezza onda, un quarto d'onda, Una cosa del genere, la boomerang, quella grande. Ah, un quarto mi sembra che sia, ce l'ho anche io, non mi ricordo se era un quarto d'onda, un mezz'onda, non mi ricordo. La boomerang grande, quella da due metri. Lo so, ce l'ho anche io quella lì, ce l'ho nuova dentro la busta, perché c'era quella più forte e quella più lunga. E io ce l'ho più grande, questa era la Tantone, quella venduta. Adatta a lui, l'ho messa in terapia, l'ho messa sul tetto, ho avuto dei problemi e allora l'abbiamo messa qua nel terrazzo, ma andiamo a rendere, già la sento tutti praticamente, so arriva benissimo, tutti, chi più, chi meno. Sì, ma qua non c'è una buona, aspetta qua, ascolta che marcia è quella lì? Scusate un attimo Luca, ricordami chi è Braccio di Ferro? Braccio di Ferro è Coppietro, di Sussu. Un Braccio di Ferro, non ci fa un sassolo? No, solo lui mi ricordo io. Io ti conto, ci sono dal 91-92, forse anche dal 90. Io ho iniziato dal 90 a modulare. Mi sembra, adesso vado a fare i punti, penso 95, non mi ricordo esattamente. Il mio primo apparato è stato un Midland, avevo un LED con 31 cromato, pesava 74 kg, sapeva anch'io. E c'era volante e la macchina, capito? Quella volta lavoravamo fuori tutti quanti, tutti quanti abusivi, naturalmente, gli abbasivano noti, quella lì, ma ci divertivano poco, sì. Altri tempi erano. Cosa usciamo Luca? Adesso un po'. C'ho il biele, lo devo rifare nel questa antenna. Sì, allora io ho iniziato con, vabbè, prima modulavo con l'apparecchio di mio fratello di Stefano, quando ci usciva di casa, però mi fotteva sempre perché purtroppo toccava l'alimentatore, era caldo e si incazzavano pure che toccavo il baracchino. Sì, anni 90, fai 90, fai 91 là, comunque quell'anno lì. E poi io con il mio primo baracchino ho iniziato con la Fayette Texas. Parlando qua in verticale con gli amici, mi ha fatto le cose, quindi non è che adesso di questo passaggio ti ho portato a lottare, perché stavo parlando con verticale, sta facendo un attimo di funzionare. Comunque io sto uscendo, sto andando bene, Luca. Salve, la radio non mi piace, sei troppo alta, abbassa un po' l'amplificazione, abbassa. Guarda, allora, c'è la voce rauca, ieri stavo cantando, adesso più chiuso un po' anche ieri, Fabio. No, un po' non mi piace, se sgancia. Aspetta, guarda un po', aspetta, va. Ecco qua. Adesso è cazzo, c'è una valutazione di alto. Dove va ora, Lucario? Boh, non mi piace la radio, è forte, però non è chiara chiara. Lo sa voi, le pensieri GM, però il microfono era abbassato molto, amico, guarda in mezzo chi sia. Io ti provo a dare una GAPS, là, te la cerco, uno di questi giorni viene e te la prendi, lunedì anche. Vabbè, devo cercarti la prima, quella del telefono Sirio, e vedrai tu, la cambia fa meglio, scommetti. Guarda, vai, sto guardando in cucina per una borretta, adesso sono esattamente come... sto portando qua, al momento mi segna 100 passavate, 110. Mi stai levando, quanto è Fabrizio? Grazie anche a te. Tu mi stai levando, quanto è Fabrizio adesso? Quindi Fabrizio, comunque da te sono migliorato così, adesso la mano l'ha scaldato, come lo ascolti? Sei arrivi benissimo, 7-7, radio a me piace, poi non è, forse il tuo timbro di voce è un po' rauco. Sì, no, ma lo sto dicendo, confermando che sono senza voce perché gli altri stavano cantando e non c'è voce, capito? Però vai. Ok, un attimino vado in cucina, cucina capicola era in bagno, ha fatto cosa me la sono dimenticato, va. A pisciare devi andare qua, cucina capicola, piatti la birra. Ah, pigliamo la birretta, giocannelli, cazzo zitta oggi. Vai, ripeti papì, Antonio, la c'è ancora. Cappa che ci sono ancora. No, io adesso sono proprio basso. Pochi watt ciò. Già andava. Sì, ma infatti io qua ho giusto per far scaldare un attimino, però io penso quasi 15 giorni che non accendevo più nulla, va visto? E quindi l'ho acceso per far lavorare a mio cognato e tutto, l'ho fatto finta da far scaldare un po' tutto quanto, capito? Poi adesso questi giorni scendo per la giornata, scendo l'antenna campagna, così la collaudiamo con la Mantova. La Mantova, sicuramente ti arrivo fortissimo con la Mantova. Ora sta passando il mic a mio cognato, che mi vuole salutare, è in diretta con la compagna in Francia, capito, mi vuole salutare, me la faccio venire avanti. Quanti? Ciao a tutti, come state? Buona tosti quanti voi, un saluto alla Francia, anche se sono a Sardegna oggi, ma un bacione a voi. Appa, salutone anche a te. Appa. Avanti lui. Grazie, salate, spero che possa una buona serata, ci sentiamo domani, dai, bacio a tutti quanti, ciao. Ehi, Araccio, anche per te, stiamo bene, ok. E allora, Lucarelli, ripetela a salutarlo. Ciao, rimaci a lunghe, ci sentiamo, che è per te, che è. Quando vai casino in casa, è un casino modulare, è un casino. Riprende, Anto. È un casino, sì. Grappa, ho messo l'eco adesso. Adesso mi piace la telecamera colorata al baracchino, così faccio vedere la Bex fresca. Buona la Bex, mi piace un sacco la birra, buona. Buona. Ultimamente la nastra azzurra fa un po' schifetto, troppo dolce rimane questa birra. La puoi venire la birra croce. Calma via, un'altra. Non esiste, era chiamo così. Sì, frosh. Facciamo vedere, aspetta, Se la moneta cai in culo, a culla e tutto. C'ho problemi a TL, perché se lo tocco mi guarda, guarda, anzi guarda, come sparisco. Ma che attento che bici il baracchino così, adesso si c'è già due. Adesso normale. Adesso qualche corto c'è. Adesso sei normale. Chi è? Quello dell'antenna o quello del baracchino? Quello del baracchino. Cambialo. Magari non fa bene massa. Qui che a TPL bisogna stare attenti saldandole. Magari o c'è disaldato quello centrale o la calza non fa massa bene, quindi succede quello. Sicuramente. Io per esempio non ne prendo mai quelli con l'adattatore, li prendo quelli giusti proprio che entrano nel campo, perché sennò mi rompono le palle. Poi sopra li metto il coso, li metto una passata di vulcanizzante, almeno non si muove più nemmeno, è più forte rimane. Diciamo proprio, ma lo muove appena si sa da tutto e tocca, non tocca e poi ti ha problemi. Ma difficilmente quelli che saldo io mi danno problemi. A meno quello sono capace a farmelo. Una volta solo me l'ha dato, ma è perché era un PL che, del capolo che mi si è sciolto, cioè si è sciolto appena appena e quindi girava dentro. Io stare attenti saldando quei PL. Allora, poi ragazzi, il tipo di saldatore, ci sono quelle piazze che non regolano, diciamo, la temperatura, più scala, più scala, tutto. Ma infatti è tutto molto molto, bisogna rifarlo, Di capolo. Ancora un attimo. Ciucucciù. Ok. Però vabbè. Quindi Antonio, lo travaglio, quindi vanno ammazzati, meglio così. Si è scatenato tutta alle 10:30, un casino nero. Siamo dovuti uscire in due macchine a Chipisi, noi a fatto i gatti da mare, proprio. Sono stati cavoli amari ieri. Però abbiamo risolto, Che è sempre così, come le feste, ogni 3-4 vincoli di scorta, come devono fare 4-6 mesi. vabbè, è sempre stato così. Allora, dimmi una cosa, ma quanto state vendendo voi per comparare i prezzi che ci sono su? Ma il negozio. Come vendete voi? Per vedere se è uguale a come in Corsica. Qua è 23 da 10 e 34 da 15, andate a prenderla. Per lei c'è da noi da 10 costa 16 euro e 25 è quella da 15. Ma lì è Francia. Sempre se va a prendere, capito. Quindi c'è cioè 34 presa la terra. Quella da 15. Fatto bene, è così. È la marca, il colore. No, stiamo trattando poco fiamma, liquid gas, che chi ci ha aumentato i prezzi in una maniera incredibile. Io vi saluto, qua ha scaldato tutto, è tutto che c'ho famiglia, amici che mi aspettano, sarà a pranzo, non mi sembra educato. Mi ha fatto piacere sentirvi e augurarvi un buon Natale, anche se sta terminando oggi il Natale. E ci sentiamo a presto, ok? Un abbraccio. Ciao Salve, mi ha fatto piacere ascoltarti. Stammi bene e buon proseguimento di giornata. Avanti a tu. Ciao Salve, ci risentiamo alle prossime. Avanti tu. Tu che ha fatto bianco, lo riprende. Quindi di quelle azzurre non state trattando poco. Come mai? Ah, chi è caro? Sì, me l'hanno detto anche altre persone. Stanno aumentando un bel. Ma sono quotidiani, semplice, non vi sono sicuri. Qui gas prendiamo noi molto. Qua Fabri, adesso ho spento, c'è la differenza, abbassato mi sono. Da 7 sei sceso a 3. Gaffarogino, dai. Sì, già funziona, dai, l'ho comprato su eBay, anche lui, che mi è sempre piaciuto il BV131, una valvola, si comporta bene, qualche volta te lo dà, già ti aiuta parecchio. Cioè, va bene, dai, vi saluto di nuovo, salutate da Luca quando rientra. Ci sentiamo a prezzo, ok? Un abbraccio, ciao, la Lena Lunga, passo in QRT, salutoni, anche le eventuali ascoltoni. Sono appena rientrato, ciao, alla prossimina, avanti Antu. Ciao, salve, ci sentiamo alle prossime. ma non è mai Romeo, però il mio c'è qualcosa di diverso. Okay. ciao, la risentiamo. Ok, ciao, salve a tutti. Beh, Luca, ribigliato, sì, dai, quando sei andato a pigliare la birra o sei andato nel cucchia a Capicolino? Io? Eia. No, niente birra, no, sapevo che c'ho lo sfumante dolce, lo bracchetto, là. No, santa, prendimi un pezzo di panettone. Quello senza canditi, però, altrimenti non le mangio. Ok. Bene, meglio così. Quindi a tu e uscimi, quando uno deve prendere dovrei prendere di meno. A parità di prodotto, capito? Perché sicuramente dici, cazzo, meno la pago e più guadagno. Oppure posso fare dei prezzi più competitivi. Funziona così. Ma secondo te, cioè, appena... Cioè, ma secondo te quasi 20 euro a pompare, ma tu sei mancante. Cioè, oh, hai catturato un 20 per guadagnare. E allora, avete sempre fatto così i salienti lì, è così, molta differenza. Poi ho visto anche, l'altro giorno ho visto anche qua la veloce, quello che le porta qua era sempre carico di liquida. Per forza, fa mandarsina a fanculo. A fiamma, non ne vuoi comprendi, dice che loro pagano gli autisti e pagano tutto. E non vogliono guadagnarci dalle bombole. Caso strano, un cacacarri qua rivende pure la Cagliari, a quanto mi hanno detto. Cioè, in che senso, Antu, che no, gli autisti li pagano? Non ho capito che cosa vuoi dire. Tu che su Bauscia. Io non lo chiamiamo Bauscia, lo chiamiamo Ariuscia. Ha detto che loro, gli autisti, li pagano tutto. Dalle bombole ci vogliono guadagnare, non vogliono perderci niente. Che cazzo che discorso di merda sta facendo? Gli autisti li pagano, invece la liquida non li paga. Ma che cazzo di discorso? È tutto macco, eh. Invece gli altri non li pagano. Gli altri li pagano, bene. Perché da poco mi sono trovato un trasportatore che porta quelle lì verdi e sono sempre pagati, capito. Però io quando si parla di soldi, bisogna guardare sempre la carta, non le parole, perché se tu ascolti le parole, dicono un sacco di cazzate. Sì, sono tutti macchi, comunque la liquida c'è la più che sta lavorando, anche se adesso stanno arrivando a San Rocco le bombole. Porto Torres c'è solo lo stoccaggio. Ma come mai? Hanno voluto fare così. Arrivano gli articolati, come l'ha. Cioè quindi hanno chiuso l'imbottigliamento del nord, e come mai? E di là, E magari per rompere i guglioni agli operai, cercare magari di farne fuori magari quelli più anziani, per non pigliarne altri, e si sfruttano cazzo quelli di giù, sono venuti tutti così, e quelle azzurre non hanno fatto lo stesso così. Sì, già lo so, già. E sono l'officina lì a Monterraggio. Sì, è già 7-8 anni così, a Carigliai. Avanti Luca, là, se no facciamo un pugno. Luca, sì, andate a piacere un pezzo di panettone. E così sono, ragazzi, quindi lui c'è altro me di cazzate. Oh, comunque, tu, se ti capita di fratello, digli, ha detto Fabrizio, a pigliarsela in culo. Ah, a gattuccia. E quello è gaming, non sapevi che è gaming? Eppure dite di no. Alla sali, ragazzi, che quando hanno fatto il miliziale, ragazzi, gli hanno fatto raccogliere la sanfonetta e poi c'è la... Ma l'ha detto pure un gozzo che mi ha detto un broccio. Ma l'ha detto Angelo pure, ma mi ha detto scherzando così. Ehi, vabbè. Allora, quando tu lo vedi, se ti cazza così, dimmi, vedi, tanti soldi da... Ecco, la piazza nel culo. Per carità. Sei proprio con Vauragio? Sì. A chi? Non puoi stare, dai. Era un caro personaggio. Allora, a me me l'ha detto, io ho trovato un produttore di un'altra ditta, questa fra i nomi, e me l'ha detto, bello, non trattiamo più quello lì, perché gli dice una cosa e poi non la fa. Andava a rompere le scatole ai rivenditori ufficiali, non quelli promiscui. Allora, no, tipo, ci va e poi ci andava. Ma guarda che c'è gente peggio di lui pure, vabbè, se non posso assicurare. vabbè, quello sicuramente, è tutta una gabbia lì, una gabbia di leoni, capito? E basta così, ma non me lo dice, i prezzi sono alti, quello me li fa di meno, ho fatto veramente come a pessimi. Sarrato va a rubacone. Oh, yeah. Ormai che rubacone sarrato. Oh Fabri, io adesso prendo, mi dico qualche sobbistracco. Ce la risentiamo, ha fatto piacere sentirti. E qua magari devono dormire. Ciao Fabri, ce la risentiamo alla prossima. Ciao Luca, ciao a tutti quanti da parte mia. E ya, oh, anche a me ha fatto piacere, infatti come ci sentito subito sono entrato a salutarti, capito, senza nessun problema. Dammi bene, buon fine giornata, ci sentiamo, ma domani non lavorate? Ah, sarà buono ammazzato, ma è gioca a casa. Quindi intanto io sono tutto il mese prossimo, sono qua, cioè ci sono diciamo, cambiamenti, sono tutto il mese qua, il prossimo mese che arriva. Vabbè, già, come ti sento, già entro a salutarti, dai. Stammi bene e ci sentiamo alle prossime. Ciao, ci sentiamo. Ti stavo ascoltando, finora mi stavo ascoltando. Ok, io invece purtroppo domani lavoro, faccio il pizzaiolo, Fabri, e domani mi tocca lavorare, porca rocca. Quindi la è buona la pizza, Fabri, da allora, è molto buona. E dove ce l'hanno la pizzeria? Ma grazie a Veletta. Udrixi, via Veletta. Ma quella salendo a sinistra? No, la prima pizzeria salendo a destra in Vera Federetta, Publix, all'angolo dove c'è Murito. Ah, ho capito. Mia sorella ha presa lì una volta, per carità, faceva schifo. No, ti hai sbagliato la pizzeria, è possibile, che la voce è davvero. Sto scherzando, ed è buona, l'ha presa mia sorella, è buonissima. Capito. E poi a me le pizze mi piacciono, e quando è buona, lo dico. No, dove l'abbiamo già mangiata lì, mia sorella la prende spesso lì. Poi sono anche puntuali consegnando, te lo devo dire. E poi può capitare in ritardo, logicamente il sabato facciamo 300 pizze, cazzo 10 minuti in ritardo ci possono stare, magari dare un lavoro di 2 ore, che cazzo tu ti hanno dato le 9, ti arriva alle 11, non va più bene, così non è professionalità, capito? Noi curiamo il dettaglio, siamo persone serie, lavoriamo come si deve, con prodotti buoni e sappiamo fare quello che facciamo, ok? Dai ragazzi, vi saluto, un abbraccio, buonanotte a tutti, che adesso è il momento che si stanno lamentando. Ehi, allora, ciao, salve, stammi bene, ci sentiamo alle prossime, anche io mi chiudo, vado a mangiare, capito? Ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime, stammi bene.